X24, la storia. Il 20 gennaio del 42, in una bellissima villa vicino a Berlino, 14 alte cariche del Reich di Hitler vennero convocate per una riunione della massima importanza. L'oggetto della riunione, iniziata verso le 12, era uno solo: la messa a punto dei dettagli organizzativi della soluzione finale del problema ebraico. Quella che con una tremenda parola sarà poi chiamata e ricordata da tutto il mondo come l'Olocausto. Noi oggi su Mix24 partiamo da dove i nazisti hanno finito, dall'apertura dei campi di concentramento, quando gli alleati furono costretti a confrontarsi con quella terribile realtà. Il 15 aprile del 45 le truppe inglesi entrano nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e girano delle immagini come prova di quell'orrore a futura memoria. Come consulente per la regia di quel filmato da realizzare viene chiamato un famoso regista di Hollywood, Alfred Hitchcock. Subito dopo la fine della guerra, per la crudezza delle immagini o forse anche per Realpolitik, la Gran Bretagna premeva infatti per una riconciliazione con la Germania in funzione antisovietica, le immagini vengono accantonate e lasciate negli archivi britannici. Solo dopo la scoperta di un ricercatore del 1985 la BBC decide di mandarlo in onda. Fu uno shock per il mondo intero. A parlarcene il regista di quel filmato, Sidney Bechstein. Nell'aprile del 45 l'esercito britannico aprì i cancelli del campo di Belsen. Le mie istruzioni erano di filmare tutto quello che potesse provare che queste cose erano realmente accadute. Sarebbe stata una lezione per tutta l'umanità, oltre che per i tedeschi. Il film doveva essere realizzato con l'intento di essere mostrato ai tedeschi. La maggior parte di essi, dopo la sconfitta, negava di essere a conoscenza dell'esistenza dei campi. Ma noi avremmo mostrato questo film come prova. Ma il film di Bernstein non fu mai proiettato pubblicamente. Il governo britannico, che aveva incoraggiato l'iniziativa, finì poi per ostacolarla. Il film è rimasto negli archivi per 40 anni. Nella primavera del 1945, gli alleati, nel corso della loro avanzata verso il cuore della Germania, giunsero a Bergen-Belsen. I soldati inglesi guardavano con ammirazione il paese e i suoi abitanti. Questo almeno finché non cominciarono a sentire un odore molto forte. Veniva da un campo di concentramento, una distesa di terra incolta, recintata con filo spinato e sovrastata da torri di controllo. Venendo dalla campagna fiorita, nonostante il terribile odore, la situazione a prima vista non sembrava poi così tragica, ma il campo di Belsen era molto esteso e al suo interno la situazione era ben diversa. La gente non mangiava da 6 giorni e fu necessario dare fondo alle riserve alimentari di tutti i soldati. Mancava anche l'acqua e questa era la cosa più grave. Presto si scoprì che i più erano troppo malati per poter mangiare. Non avevano neanche più la forza di togliersi i pidocchi che davano loro il tormento. C'era una ragazza in piedi, un po' più lontano, dietro i cancelli. Nei suoi occhi c'era una muta implorazione. Ma io non risposi. Non sapevo cosa fare. Uno dei testimoni fu una ragazza, all'epoca 18enne, Anita Lasker, che sopravvisse a 3 anni e mezzo nei campi di concentramento. Il solo fatto di venire rapato rende immediatamente l'uomo un essere senza più identità. Cessa di esistere. Isolare un uomo, separandolo dalla propria famiglia. Qualcuno viene preso insieme alla famiglia, ma poi ad un certo punto ti separano dai tuoi cari e ti ritrovi solo. Ti rapano, ti assegnano un numero e ti dimentichi chi sei. Non sei più nessuno. Ti fanno rimanere fermo in piedi per ore, per essere contato. Quasi tutti hanno la dissenteria, ma non ti viene permesso di andare a liberarti. E il risultato finale è che diventi un animale, anzi peggio di un animale. Incredibile, specialmente quando la gente continuava a morire ogni momento e si doveva tirare fuori i corpi che aumentavano sempre di più. Non c'era niente da fare, era un inferno. I prigionieri, per potersi guadagnare un tozzo di pane, dovevano trascinare i corpi, ma erano troppo deboli per riuscire a seguire il ritmo con cui i compagni continuavano a morire e così la fossa rimaneva riempita solo per metà. Le guardie delle SS incaricate di occuparsi del campo sono state arrestate e trattenute per essere esaminate e i loro documenti controllati per avere conferma del loro ruolo e grado, ciascuno con il proprio triste bilancio di morti. Ognuno di loro è giustificato dalla legge tedesca, non si vergognano, sono ben nutriti, ben vestiti, allegri. Il comandante del campo, Josef Kramer, è rimosso dalla carica e sottoposto a processo come criminale di guerra da un tribunale militare alleato. C'è una terribile urgenza di liberarsi del maggior numero di corpi nel minor tempo possibile, quindi tutte le guardie vengono messe al lavoro. 500 soldati ungheresi catturati con le SS sono messi a lavorare. Le stesse SS sono così costrette a svolgere lo spiacevole lavoro a cui avevano costretto le loro vittime. Uno dei primi soldati inglesi a vedere questo orrore fu il cameraman Bill Lorey, che così ricorda quei momenti. Mi è rimasto un ricordo molto vivo di un corpo trascinato in questo modo, come Cristo in croce, e delle tracce lasciate dalle sue dita. Il lavoro di ripulire Belsen è immenso. Dopo 7 terribili giorni si continuano ancora a celebrare funerali. Sembra che non debba più esserci fine. Il borgomastro e le autorità del circondario sono chiamati ad assistere a scene previste dal tragico copione nazista. Forse non si aspettavano tanto. Volevo che vedessero quello che era stato fatto alle tragiche figure che ora venivano seppellite. Alcuni dei tedeschi che portammo dentro per filmarli mentre i corpi venivano seppelliti nella fossa non ce la facevano più a guardare. Volevo dimostrare che loro avevano visto tutto e quindi c'erano delle prove. Avevo avuto una giusta intuizione. La maggior parte della gente in seguito avrebbe negato che ciò fosse realmente accaduto. Un ufficiale britannico rivolse un appello ai cittadini tedeschi attraverso l'altoparlante di un camioncino. Quello che vedrete qui è un vero disonore per il popolo tedesco e quello che c'è qui non è che una piccola parte, il che rende questa vergogna ancora più difficile da tollerare. Voi che non vi siete ribellati spontaneamente e che non avete fatto nulla per tenere alto il nome della Germania, sappiate che dovrete espiare con dolore e fatica fino a quando non sarà nata una generazione di buona volontà che sappia impedire che si ripetano tali orribili crudeltà. Il dramma fu che la gente cominciava a mangiare e moriva a causa del mangiare. Non erano più abituati a nutrirsi. Bisognava controllarli attentamente. Avevano fame, ma i loro corpi rifiutavano il cibo. Così migliaia di persone morirono dopo la liberazione. Avete sentito le parole della deportata Bergen-Belsen Anita Lasker? Quello che succedeva all'interno del campo è difficile da accettare e raccontare per molti dei soldati inglesi che arrivano nel campo di concentramento. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Nel 1945 le porte del campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania vengono aperte dalle truppe alleate. L'esercito inglese viene incaricato di girare delle immagini come prova dell'orrore di quello che è accaduto a Belsen. Il regista è Sidney Bernstein. Il problema che Bernstein dovette affrontare successivamente fu quello di dare a tutto il materiale una forma coerente. Quindi invitò i giornalisti Coin Wills e Richard Crosman a scrivere il commento e la sceneggiatura. Si unì infine a loro un famoso regista di Hollywood. Alfred Hitchcock era un grande regista. È un uomo brillante. Avrebbe potuto darci delle idee su come mettere insieme tutti i pezzi. E di idee ne aveva molte. Peter Tanner, montatore del film di Bernstein, ricorda che Hitchcock temeva che i tedeschi potessero dire che il documentario fosse falso. Il principale contributo di Hitchcock al film fu quello di cercare di dargli la maggiore autenticità possibile. Cioè, cosa ancora più importante, di fare in modo che tutti, e soprattutto i tedeschi, fossero convinti che era tutto vero, che queste cose orribili erano realmente accadute e che la gente aveva veramente sofferto in modo così atroce. Me lo ricordo bene, mentre camminava avanti e indietro, chiedendosi come avremmo potuto rendere il materiale convincente. Tutto questo avveniva nell'aprile del 1945, quando le truppe inglesi penetravano nel campo di Bergen-Belsen. Ma era iniziato molto tempo prima. Ma intanto, chi sapeva? Di sicuro una documentazione di chi sapeva è contenuta in alcuni documenti che un signore, un polacco, ha portato in giro per mezzo mondo. Documenti che, se presi sul serio, avrebbero potuto cambiare il corso della storia. Questo signore si chiama Jan Karski, nato in Polonia nel 14, entrato nel corpo diplomatico polacco nel 38, dove faceva un mestiere un po' particolare. Faceva il corriere, cioè faceva da tramite tra i capi del movimento clandestino e i capi dei governi alleati. Ma chi era Karski? Perché il suo viaggio è stato tanto importante? Quali sono state le sue tappe? E perché questo viaggio avrebbe potuto forse cambiare il corso della storia? A parlarcene in un'appassionata ricostruzione è la giornalista Fiamma Nierenstein. Karski, questo altissimo ragazzo polacco di buona famiglia, che in realtà si chiamava Kozielewski, probabilmente non pensava di diventare il più importante fra tutti i corrieri che collegavano il governo in esilio del suo paese al paese occupato dai nazisti. Perché divenne il più importante? Perché fu il solo che portò notizie dettagliate dello sterminio degli ebrei. Le portò e perché le raccontò di prima mano, avendole viste con i propri occhi. Infatti risiedette per 2 anni in incognito a Varsavia, proprio negli anni cruciali della storia terribile del ghetto di Varsavia, nel 41 e nel 42. E anche perché entrò fra molti pericoli nel primo campo di sterminio, il campo di Belzec, dove si sentì male e riuscì a scappare solamente in maniera fortunosa. I capi degli ebrei polacchi riuscirono anche a consegnargli dei messaggi da portare a tutti gli uomini di buona volontà, da portare ai governi alleati, cosa che Karski cercò di fare. In che modo? Karski compiva un cammino estremamente complesso, da Varsavia, dove già arrivava pericolosamente, attraversava la Polonia e poi al confine ungherese passava i Carpazi sugli sci. Attraversava poi tutta quanta l'Ungheria, si dirigeva verso l'Italia, poi la Svizzera e poi, fino a che il governo francese, il governo polacco ebbe sede ad Angers, là pigliava ordini e poi tornava di nuovo in Polonia. Quando poi il governo si spostò a Londra, perché la Francia era stata interamente occupata dai nazisti, arrivava fino in Spagna, condotto dai comunisti spagnoli, e da lì, a bordo di un piccolo aereo, volava a Londra. Documenti che Karski portò a Londra e che mostrò prima ai polacchi, poi ai funzionari inglesi e americani. Ma allora, come andarono gli eventi? Qual era il clima in quegli incontri? A raccontarlo, Karski in persona. Arrivai a Londra all'inizio del mese di novembre del 1942. Prima di tutto mi dovetti rimettere, poiché non ero proprio in un'ottima forma fisica. Poi iniziai a fare i miei rapporti, prima di tutto ai leader polacchi, cioè del governo polacco. Si trattava di leader di partiti politici, il primo ministro generale Sikorski ed altri. Poi iniziai, nel mese di gennaio, il mio lavoro con i funzionari americani e inglesi. Prima contattai l'ambasciatore americano presso il governo polacco, Anthony Drexel Beagle, e poi l'ambasciatore inglese O'Malley. In seguito contattai, o piuttosto fui contattato da 4 membri del Ministero della Guerra, persone molto importanti, poiché durante la guerra questo ministero rappresentava il centro del potere. Infine contattai il ministro degli esteri, Anthony Eden. Se mai succedeva che cominciassero una discussione, uno scambio di idee, di solito l'argomento era: si è giunti alla conclusione, ai più alti livelli, cioè da parte di Roosevelt, Churchill e Stalin, che la strategia globale di questa guerra è la sconfitta militare della Germania, cioè la distruzione del potenziale bellico industriale della Germania. Nessun altro problema secondario deve interferire. La questione quindi stava in questi termini. La tragedia degli ebrei, così dolorosa e imbarazzante, per loro era un problema secondario. Secondario no, gli inglesi lo sapevano e lo dimostrano i documenti che sono la prova che Karski incontrò Anthony Eden nel febbraio del 43. Eden allora era il ministro degli esteri e sapeva tutto, tanto che a una domanda precisa rispose: grazie, la relazione Karski ci è stata recapitata, e troncò la discussione. Ma anche Roosevelt, il presidente americano, sapeva tutto, e sapevano tutti i membri del governo americano, e ancora Karski che ce lo racconta. Roosevelt fu molto gentile, ma principalmente Era interessato alle questioni politiche. Mi fece parecchie domande sugli ebrei, chiedendomi cosa avevo visto e se potevo fornire delle statistiche, eccetera. Si limitò a dire che quando sarei tornato in Polonia avrei dovuto riferire ai miei capi che i confini della Polonia nell'est sarebbero cambiati. La Polonia sarebbe stata ricompensata con i territori tedeschi. Mi disse che dovevo dire loro che avremmo vinto questa guerra e che finalmente, dopo la guerra, i colpevoli sarebbero stati puniti. Makarsky non incontrò solo inglesi e americani, ma anche leader ebrei. Come il presidente del Congresso Mondiale Ebraico, Rabbi Wise, e il presidente del Congresso Ebraico Americano, Nahum Goldman, e giudici della Corte Suprema, tra cui il potente Felix Frankfurter. Alla mia sinistra era seduto l'ambasciatore polacco Jan Czekanowski. Poi Frankfurter si sedette di nuovo e disse: signor Karski, e mi ricordo ogni singola parola che mi disse, un uomo come me che parla con un uomo come lei deve essere completamente sincero. Quindi le dico che non posso assolutamente crederle. Allora l'ambasciatore, che era suo amico, gli disse: Felix, non puoi dirgli in faccia che sta mentendo. Lui è investito di tutta l'autorità del mio governo. E Frankfurter rispose: signor ambasciatore, non ho detto che questo giovane sta mentendo. Ho detto che non sono in grado di credere a quello che ha detto. Poi tese le braccia verso di me e disse: No. Ma se tutto era chiaro per Karski e per i documenti che portava, allora perché gli uomini politici non gli credettero? Era un isolato? Era un uomo inattendibile? Ce ne parla ancora Fiamma Nierenstein. La cosa più importante da dire è che tutta la popolazione poi del mondo era raggiunta dalle notizie di stampa di quello che stava accadendo. Non ci fu testata, non ci fu evento che non parlasse di quello che era successo. Dalla BBC, che dedicò una quantità di trasmissioni a quello che accadeva, su indicazione di Shmuel Ziegenbaum, che era il capo del Bund polacco che poi si suicidò, fino al New York Times, il Times, il Daily Telegraph, il Manchester Guardian, tutti parlavano delle stragi dei ghetti di Lodz, dei ghetti di Lvov, di Vilna, tutti parlarono di quello che accadeva nei campi di concentramento e si disse che 700.000 ebrei, 1 milione di ebrei, che la strage degli ebrei cresceva e cresceva in Europa. Le parole però rimasero tali, persino le parole di Churchill, che prese una posizione pubblica riportata dai giornali, persino le parole di Molotov, che stilò un precisissimo documento che fu recapitato in tutte le cancellerie del mondo, in cui si parlava delle stragi degli ebrei in Europa orientale. Perché? Una piccola spiegazione si può avanzare leggendo il testo di un documento dell'Intelligence Service che, riferendosi a un volantino che spiegava al mondo che cosa stava succedendo agli ebrei, diceva: questo volantino non va bene, censuriamolo, perché bisogna, per spiegare gli orrori compiuti dai tedeschi, non usare mai esempi che riguardino persone che non vengano ritenuti universalmente innocenti. Mai usare esempi riguardanti oppositori politici violenti o ebrei. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia della scoperta dei campi di concentramento nazisti in Germania. Nonostante le informazioni arrivassero numerosissime sugli orrori compiuti dai tedeschi, comunque nessuno ci credeva. Lo storico inglese Walter Le Clerc, nel libro Il terribile segreto, racconta quali erano le emozioni, le reazioni che suscitavano queste notizie. Prima ci fu una reazione di incredulità, perché era un evento senza precedenti e perché durante la Prima Guerra Mondiale c'erano state delle voci, che in seguito si rivelarono false, su episodi in cui i tedeschi avrebbero ucciso neonati belgi. E si era parlato molto di questo. Quindi la prima reazione fu quella di rifiutare di accettare l'esistenza di tali atrocità. Si pensava sempre che si trattasse di episodi isolati. Capitava che certe informazioni venissero da una determinata località. Si diceva, può darsi che questo accada a Varsavia, ma può darsi che non accada a Kiev o che non accada altrove. In pratica ci volle molto tempo prima che nelle capitali occidentali venisse accettato il fatto che non si trattava di episodi locali e isolati, ma che era un fenomeno molto più generalizzato. Ma se invece tutti avessero creduto a queste notizie, che cosa si poteva fare? Insomma, che fare? Ce ne parla ancora Fiamma Nierenstein. Si sarebbe potuto agire in diversi modi. Limitiamoci a un paio di cose di quelle che gli ebrei stessi chiesero di fare. Gli ebrei chiesero ripetutamente di bombardare Auschwitz. Sapevano benissimo che la ferrovia sarebbe stata immediatamente ricostruita e che i treni avrebbero seguitato a scaricare decine di migliaia di prigionieri destinati alle camere a gas. Tuttavia gli alleati, se avessero fatto quel bombardamento, avrebbero dimostrato che sapevano bene quello che lì stava accadendo e avrebbero preso una decisa posizione contro lo sterminio degli ebrei. Quindi c'era un motivo simbolico molto importante. Ma gli alleati decisero di bombardare solamente quando ormai Auschwitz era diventato un obiettivo strategico importante. Prima quel puntino sparso nell'Alta Slesia non aveva nessun significato strategico per vincere la guerra. Solo quando gli alleati erano ormai alle porte, alla fine dell'agosto del 44, si decisero a bombardare. In secondo luogo, l'altra cosa che gli ebrei chiesero ripetutamente era di far sapere all'opinione pubblica mondiale e in particolare all'opinione pubblica tedesca che noi, che chi stava al di qua della cortina tedesca, sapeva esattamente che cosa stava accadendo nei campi di sterminio, in modo che i tedeschi non fossero più sicuri di quella immunità che Hitler loro prometteva e avessero paura di quello che sarebbe potuto accadere dopo la guerra. Questo fu un altro punto importantissimo. Infine, è perlomeno stupefacente che le resistenze europee, a quanto se ne sa, non abbiano nemmeno tentato di fermare uno dei convogli che portava i prigionieri ebrei ad Auschwitz. Promette misericordia, amore, pace alle schiere infinite dei sofferenti e tribolati che vedono scomparsa la loro felicità e spezzate le loro energie nella bufera di lotta e di odio dei nostri giorni burrascosi. Riccardo, se ne hai, faccele sapere subito. Elena, Mario bene. Come tutti noi e i tuoi genitori, comprese sorelle. Firmato la cognata Renata da Genova. Quelli che avete sentito erano i messaggi che la Radio Vaticana lanciava per tentare di favorire la ricerca dei dispersi. Ecco, l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'Olocausto è uno dei capitoli cruciali per rileggere, per leggere, interpretare la storia di quel periodo. Numerosi documenti arrivavano in Vaticano, spediti dai vescovi, dai nunzi europei, tra i quali per esempio Montini, che divenne poi Paolo VI, lo stesso Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, diciamo, documenti che testimoniavano di quello che stava succedendo agli ebrei. Ecco, ma quale fu la politica vaticana su questo problema? Padre Graham, che è americano, gesuita, collaboratore della rivista Civiltà Cattolica e uno dei più importanti storici del Vaticano di quel periodo. È uno storico anche che ha avuto il permesso di accedere agli archivi vaticani. Ecco padre, è vero quindi che la Chiesa sapeva, insomma? Ma sapevamo che c'era la guerra, c'era la violenza, la morte, c'era la tragedia. Allora il Papa voleva fare il buon samaritano, cioè venire in aiuto a tutti i vittime della guerra, senza discriminazioni di razza, di religione o di nazionalità. Però, l'abbiamo detto, il Vaticano riceveva una documentazione continua, dettagliata su quello che stava accadendo. Questo mi pare che sia vero, no? Dettagliata, sarebbe dai suoi documenti mi pare che sia vero. Sì, vengono lamenti da parte dei ebraiche che cercavano di scappare dalle mani dei tedeschi e chiedevano l'assistenza, aiuto del Papa per poter uscire. Avevano una mentalità molto pratica, scappare, andare via. Erano gli stessi vescovi, nunzi, che ne parlavano di queste, per esempio, di queste persecuzioni agli ebrei. Sì. E per esempio, nel marzo 42, non so, Charge d'Affaires da Bratislava, Borzio, Monsignor Borzio, avendo saputo che questi slovacchi, ebrei slovacchi, 80.000 c'erano, ha detto questa è una misura atroce e significa la morte per la gran, più gran parte di loro. Ma non spiegava perché significa la morte. Quindi lei dice che questi rapporti non erano così dettagliati? No. Sì, però anche la stampa internazionale ne parlava. Sì, la stampa ha parlato, ma non abbastanza. Gli ebrei, loro non sapevano, in Slovacchia in questo caso e tanti altri, non sapevano cosa era il loro destino. Ecco, padre, però... Non sapevano. Padre, molti cattolici, molti preti hanno aiutato gli ebrei nascondendoli, sfamandoli, contribuendo in qualche modo a alleviare la tragedia. Sì. Ecco, loro facevano quello che potevano. Ecco, ma perché il Papa si sottrasse in qualche modo a quello che era il suo compito di capo della cristianità e di massima autorità morale dell'Occidente? Insomma, dire una parola, parola chiara. Voleva più chiara, voleva azioni. Questi ebrei volevano azioni, volevano aiuto, non proclami. Sì, ma intanto una parola chiara avrebbe... sarebbe stato una testimonianza. In tempo di guerra, perché c'è il problema? Non ascoltano il Papa in tempo di guerra, perché sono tutti concentrati sul ma fare perché la non guerra. Dirla intanto? Come? Perché non dirla comunque? Era un'autorità morale il Papa. Autorità morale, sì, faceva la sua autorità, salvando questi ebrei e tanti altri. Senta padre, ma perché allora l'enciclica preparata contro il razzismo da Pio XI non fu mai pubblicata e neanche fu pubblicata da Pio XII, come mai? Ma perché si parla dell'enciclica di progettato da Pio XI, sì, prima della guerra, sul razzismo. Ma perché non fu pubblicata? Perché non avrebbe fatto ciò che voleva fare questo, avrebbe fatto, secondo, era un altro papa, ogni papa deve fare il suo proprio pontificato. Allora, il Papa Ratti, che progettava questo progetto, lo conosco meglio in questo caso, perché è stato proprio mio capo di America, padre dell'affari, che è stato incaricato dal Papa Ratti per preparare questa enciclica sul razzismo. Ma quando è venuto Papa Pacelli, con Papa, sapevano che era la guerra. Mi sembra che la guerra doveva occupare più attenzione per impedire la guerra, questo è il problema attuale. Allora il Papa Pacelli ha ripreso una parte di questa enciclica che doveva chiamarsi Humani Generis Unitas, cioè l'unità della razza umana. Lui ha preso nel suo enciclica proprio, nel Summi Pontificati, queste idee chiave sull'unità della razza umana. Queste idee sono riprese. Ma per dire che lui deve in quel momento parlare esplicitamente contro l'antisemitismo, al momento che dove stava per andare alla guerra, sarebbe piuttosto controproducente. Lui doveva agitare questi ebrei di scappare. Ecco padre, ma il 43% dei tedeschi e il 22% delle SS erano cattolici. Lei non crede che una parola del Papa avrebbe impedito forse ai cattolici di compiere dei gesti? Quelli delle SS erano tutti apostati, erano lontani dalla religione, e credere che loro prestino orecchio alle parole del Papa è poco realista. Mm. Senta, ma lei non le sembra che complessivamente comunque questo atteggiamento pragmatico, come dice lei, però forse anche in qualche modo discutibile, non getti un'ombra sulla politica della Chiesa di quel periodo? Guarda, sono morti in guerra non so quanti, 20 milioni, 30 milioni, mi sembra questo un fattore molto importante. L'avevo in mente il Papa Pacelli, impedire l'inizio della guerra, impedire che l'Italia entrasse nella guerra. E dopo cominciato la guerra, doveva fare in modo di diminuire quanto possibile le sofferenze delle vittime, e soprattutto agli ebrei, ma fare discorsi che sarebbe assolutamente inutile, lei e fare inutile. Più male di bene. Non doveva fare questo. Ecco padre, chiedo un'ultima cosa. Lei comunque quindi non pensa che oggi sarebbe più bello in questi documenti poter trovare per la storia della Chiesa, insomma, una posizione chiara detta allora contro lo sterminio degli ebrei? Lei e io vorrebbe questo, ma non siamo il Papa, non siamo responsabili, lei e io. Lui doveva prendere cura di non fare più male di bene. E per esempio, stiamo discutendo ancora ciò che faceva il Papa o non faceva, cosa diceva o non faceva, è una questione, un problema molto delicato e dobbiamo rendere merito al Papa per aver fatto tanto per il bene degli ebrei e di tutte le vittime della guerra. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia del genocidio che ha stravolto l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Dunque non soltanto i governi alleati e la Chiesa sapevano quello che era successo nei campi di concentramento, anche un altro grande organismo internazionale sapeva tutto, la Croce Rossa Internazionale. La Croce Rossa ne era a conoscenza e lo sapeva dall'inizio. Nei suoi archivi ci sono le prove. Nel 1941 una folta delegazione della Croce Rossa a Berlino visitò centinaia di campi tedeschi e viaggiò diffusamente nei paesi occupati. La delegazione era guidata da Roland Marti. Marti non fu diretto testimone di deportazioni o di massacri, ma il suo gruppo parlò con persone che lo erano state. Nel corso del 1941 e del 1942 inviò al quartier generale della Croce Rossa rapporti continui e dettagliati sulla situazione. È la prima prova che la Croce Rossa sapeva, ma Roland Marti non è l'unico a sapere. Sapeva anche Karl Jakob Burckhardt, vicepresidente artefice della politica della Croce Rossa durante la guerra. Burckhardt era un raffinato diplomatico che aveva visitato i campi di concentramento nazisti nel 1940. Conosceva bene la natura del governo di Hitler. Ufficialmente, i nazisti sostenevano che i prigionieri dei loro campi di concentramento erano criminali e quindi di nessun interesse per la Croce Rossa. Eppure, nel 1942, Burckhardt si sentiva abbastanza sicuro da appellarsi direttamente ad Himmler, il temuto capo delle SS, per aiutare un amico prigioniero di un campo di concentramento. È la seconda prova che conferma che la Croce Rossa sapeva. Il 14 ottobre 1942 fu indetta una riunione del comitato direttivo della Croce Rossa Internazionale. C'era un unico punto all'ordine del giorno. All'interno della Croce Rossa c'era notevole simpatia per gli ebrei. Durante l'estate era stato stilato il testo di un appello a favore delle vittime civili della guerra, poi distribuito a tutti i membri del comitato. La maggioranza era sufficientemente allarmata dalle informazioni che giungevano e riteneva che la Croce Rossa dovesse rompere la sua tradizione di silenzio. La riunione cominciò alle 3 di pomeriggio. Il presidente interpellò tutti i presenti. La maggior parte di loro si dichiarò favorevole ad un qualche tipo di appello. Poi il presidente diede l'ultima parola a Philippe Etter, a nome del governo svizzero, e a Burckhardt. Furono entrambi irremovibili. Niente appello. Ignorando l'opinione della maggioranza, il presidente della riunione concordò con queste due voci autorevoli. Il martelletto segnò con un colpo la fine di questa riunione decisiva. Non ci sarebbe stata alcuna protesta da parte della Croce Rossa di fronte al massacro degli ebrei. E questa è la terza prova, il verbale della contestata riunione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, sessione plenaria a Ginevra, mercoledì 14 ottobre del 42. I documenti parlano chiaro, la lettera del delegato Roland Marti nel settembre del 42 e la riunione della Croce Rossa il 14 ottobre dello stesso anno. Ma perché la Croce Rossa ha deciso per il non intervento? Lo storico Jean-Claude Favet, incaricato dalla Croce Rossa di ricostruire quel periodo, ha una sua opinione. Ho cercato di capire perché la Croce Rossa non fu più coraggiosa. Non è facile dire una cosa del genere, ma credo che la Croce Rossa e i dirigenti del comitato abbiano soppesato attentamente i rischi che avrebbero corso o che ritenevano che avrebbero corso con un intervento che, per inciso, sarebbe stato doveroso. Alla fine conclusero che le loro possibilità di intervento erano limitate alla luce delle possibili rappresaglie. Nel frattempo, qual era la situazione in Palestina? A parlarcene ancora Fiamma Niederstein. Lo Stato di Israele ancora non esisteva. Quindi non c'era né un parlamento né un esercito degli ebrei. Il territorio palestinese a quel tempo era un mandato britannico. Gli ebrei che, inseguendo il sogno sionista, erano immigrati in Israele fra le due guerre, erano circa 300.000, ma con l'avvento di Hitler questa immigrazione si accelerò moltissimo. Solo nel 1933 ne immigrarono 63.000. A quel punto gli inglesi posero un halt e dissero che gli ebrei non dovevano più immigrare. Allora gli ebrei cercarono di immigrare clandestinamente e in quel periodo due navi furono lasciate affondare davanti alla costa con loro carico di uomini, donne e bambini, perché gli inglesi non consentivano più di sbarcare. Gli ebrei, già residenti in Israele, si unirono all'Inghilterra nello sforzo bellico contro Hitler e cominciarono ad armarsi segretamente. Gérard Regnier del Congresso Ebraico Internazionale è stato il primo a raccontare agli ebrei quello che stava accadendo. Ascoltiamolo. Noi venimmo a sapere da numerosissime fonti, cioè da singoli individui, da alcune comunità o semplicemente da persone che viaggiavano molto, delle cose veramente terribili, cose che stavano realmente accadendo, l'uccisione di decine di migliaia di ebrei. Queste uccisioni avrebbero portato allo sterminio di tutti gli ebrei in determinate città. Questa circostanza è confermata da Shabtai TV, famoso ascoltatissimo storico israeliano. Nell'estate del 1942, le notizie che ricevemmo attraverso canali ebraici da Ginevra cominciarono ad assumere un aspetto sempre più realistico e credibile. Poi, nell'agosto di quell'anno, ci fu la famosa lettera e il cablogramma del dottor Rigner e del dottor Lichtenstein, la prima indirizzata al Congresso Ebraico Mondiale in America e l'altro all'agenzia ebraica di qui. E anche questa volta l'agenzia pensò che queste notizie non potevano essere vere. Il cablogramma di Rigner diceva che c'era stata una riunione in Germania nel gennaio del 1942, in cui era stato deciso di eliminare tutti gli ebrei in un colpo solo. Questo naturalmente andava al di là di qualsiasi immaginazione. Nessuna mente umana poteva concepire una cosa del genere. Prendere tutti gli ebrei ed eliminarli, sterminarli in un colpo solo. Quindi l'agenzia ebraica, e in particolare la persona che era a capo del Comitato per la Liberazione, che era il dottor Israak Greenbaum, rispose al dottor Lichtenstein chiedendogli di controllare di nuovo le sue fonti. Si potrebbe dire quindi che una delle reazioni più diffuse fu quella di incredulità. La gente non riusciva ad accettare che una cosa del genere stesse realmente accadendo. Questo avvenne nell'estate del 1942, ma poi arrivò il novembre del 1942 e a quell'epoca dei profughi ebrei provenienti dall'Europa occupata dai nazisti arrivarono in Palestina e furono intervistati da alcuni funzionari dell'agenzia ebraica. In tale occasione ci fu un incidente che fece molto scalpore all'epoca. Il signor Dopkin stava intervistando questi profughi quando sentì dire da una donna che faceva parte del gruppo che esistevano i forni crematori e che aveva visto del fumo uscire da questi forni. Lui non le credette e le chiese: è veramente sicura di averlo visto? E lei gli diede uno schiaffo. La comunità ebraica dunque nell'estate del 42 sapeva tutto, ma non intervenne o comunque non riuscì a intervenire in modo da fermare l'olocausto. Ma che cosa potevano fare i leader ebraici all'epoca e in particolare Ben Gurion? Il padre fondatore di Israele che cosa poteva fare? A parlarcene la storica Edith Zersal. Il salvataggio di 100 e 1000 ebrei era soltanto un'azione marginale per Ben Gurion, che era per le soluzioni in grande scala e di conseguenza aveva escluso piccole operazioni di salvataggio. Ben Gurion non ha mai dato un gran peso al problema della salvezza degli ebrei. Considerava invece più importante la fondazione dello Stato ebraico, poiché vi vedeva una soluzione futura alla questione ebraica e quindi anche allo sterminio di massa degli ebrei. La Realpolitik ha prevalso per gli alleati, per la Chiesa, per il Vaticano, per la Croce Rossa Internazionale e ha prevalso anche per Ben Gurion e gli ebrei di Palestina. Ma è possibile che tutto questo sia giustificabile, in qualche modo accettabile solo in nome della ragione politica? Questa è la posizione di Jankarski. Oggi tutti si professano amici degli ebrei. L'umanità è imbarazzata per ciò che accadde con gli ebrei. Normalmente ho solo un tipo di risposta da dare alla gente quando discuto di questo. Per andare sul sicuro è giusto affermare che nessuna nazione, nessun governo, nessuna chiesa fece abbastanza. Come lo so? 6 milioni di ebrei sono morti. Certo, gli ebrei non furono i soli a morire. 3 milioni di polacchi furono uccisi dai nazisti. L'Unione Sovietica perse 20 milioni di persone. I francesi, i vostri italiani, i bulgari, tutti ebbero delle vittime. Milioni di persone morirono. Ma gli ebrei furono tutti quanti perseguitati. Questa era la differenza. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.